Per le aziende professionisti il cloud significa potenza, risparmio e scalabilità. È la sicurezza di un data center sempre con te. Sviluppa i tuoi progetti con le migliori soluzioni cloud di Aruba.it. Cartellone. Di Elisabetta Fiorito. Buon pomeriggio e bentornati a Cartellone, il rotocalco di teatro di Radio 24. In questa puntata vi portiamo a Pesaro, dove fino a domani Glauco Mauri festeggia sul palco del Teatro Sperimentale i suoi 90 anni con L'ultimo nastro di crepe di Samuel Beckett. Io trovo che nella mia lunga esperienza di interprete, crepe è uno dei personaggi più ricchi di sfumature di umanità, cioè il dolore e la gioia, il riso e il pianto sono talmente fusi insieme in maniera poetica come realmente capita nella vita. È possibile rivivere la propria vita ascoltando una voce del proprio passato? Il passato per me è una cosa molto importante e io credo che non si può vivere non ricordando il proprio passato, perché è proprio passato che ti dà la possibilità di far fiorire nella tua mente, nella tua sensibilità, soluzioni nuove per poter continuare a vivere. Ci ho mai visto un dolore più grande del mio? Che cos'è? Ho accusato sempre Beckett non come uno scrittore del teatro dell'assurdo, ma come un grande poeta della difficoltà del vivere dell'uomo. Come vanno le tue gambe? Male. Ma cammini? Sì. E allora muoviti! Un amore, quello tra lei e Beckett, qual è il personaggio del grande drammaturgo che l'attira di più? Ho una certa difficoltà a dire tra Ham di Finale di partita e Crepe dell'ultimo nastro di Crepe, due personaggi che io ho interpretato. Tutti e due rappresentano l'essenza di Beckett, quello che vuol dire Beckett, cioè che la tragedia del vivere può diventare farsa e che la farsa del vivere può diventare anche tragedia. Ma esiste un altro personaggio di un romanzo famoso, che è Malone. Il romanzo si chiama Malone Muore, ma il personaggio di Malone è un altro personaggio che amerei interpretare in un'eventuale riduzione del romanzo. Cosa vuol dire salire su un palcoscenico compiendo 90 anni? Vuol dire che non sono presuntuoso, ma sono pazzo forse. Sono pazzo perché confido che salgo su un palcoscenico non per dimostrare che sono un bravo attore, ma perché stare sul palcoscenico e raccontare delle favole che parlano della vita significa aiutare la gente che viene a teatro ad essere più ricca di fantasia e di umanità. Ci spostiamo ora al Piccolo di Milano, dove questa sera è scena Tadrite, un testo per la regia di Luana Rondinelli che racconta la violenza esercitata sulle donne in un contesto siciliano. Vattene, vattene, vattene. Mi sento un putearo di un facchio che renza e tu, ca facciuzza piatusa, io pessi la testa per te. E pronto a tavola, la serva ha cucinato per tutti. Tadrite è il nome siciliano del pipistrello, in un linguaggio ormai antico e con una R in più tipica del mio dialetto marsalese, diversa dalle altre zone in cui si pronuncia Taddarita. Le mie tre protagoniste sono Taddarite e sono pipistrelle. Vivono al buio perché in quel buio si nascondono e nascondono i soprusi, le violenze, nascondono i loro desideri, la loro vita, fino a che arriva uno spiraglio di luce e le Taddarite incominciano a sbattere le ali. Il suo è uno spettacolo che mette al centro la violenza sulle donne. Con ironia, com'è possibile? È possibile perché non potrebbe essere altrimenti per me, perché non potrei affrontare queste tematiche così forti senza la forza di un sorriso, anche se amaro, che in qualche modo rincuora lo spettatore e lo rende incredibilmente più partecipe. Non c'è niente di più bello di una persona rinascita, diceva Anna Magnani, e questo spettacolo si svolge durante una veglia funebre, sì, ma parla soprattutto di rinascita. In quale delle tre protagoniste si identifica di più? Sicuramente nel personaggio di Maria, che nonostante tutto riesce a stravolgere le cose, a dare una mano mano al destino perché questo accada. Lei per me impersonifica la Sicilia del futuro, la donna che non si sottomette più e finalmente alza la testa. In questo spettacolo c'è tanta Sicilia e tanta Italia. La Sicilia è un pretesto per raccontare di episodi che succedono in qualsiasi parte del mondo e dell'Italia. La violenza domestica è un male dilaniante e noi dobbiamo cercare di lanciare un messaggio che possa aprire le coscienze ovunque. Lo spettacolo è in dialetto? Sì, lo spettacolo è nel mio meraviglioso dialetto, anche se c'è una buona parte di italiano. È uno spettacolo molto musicale, c'è tanto ritmo. Proprio per questo ciò che sfugge all'orecchio per il linguaggio stretto viene recepito sicuramente dal cuore, come è già successo tante volte. La frase che più mi rappresenta di questo spettacolo e a cui sono più affezionata è sicuramente la frase che la sorella Franca alla fine dello spettacolo dice a Rosa, la sorella maggiore Franca dice a Rosa: a nascere una volta c'è sempre tempo, a nascere un'altra volta c'è sempre tempo. Ci spostiamo a Napoli nell'ambito del Napoli Teatro Festival. Al Teatro Bellini il 22 e il 23 settembre arriva Ypsilon Saidnaya di Ramzi Shukair. Lo spettacolo fa parte di una trilogia e racconta l'inferno di un dissidente torturato e arrestato dai servizi segreti siriani. Sentiamo il regista e la produttrice Esther Renavant. Pour Ygrek Saidnaya, les personnages dont Riyad fait partie ne sont pas tous d'anciens détenus politiques. Sulla scena non vedremo soltanto dei detenuti politici e soprattutto non vedremo soltanto siriani, perché il protagonista, per esempio Riyad Avlar, è turco e ha trascorso 21 anni in carcere, accusato appunto di spionaggio per conto della Turchia. Lo spettacolo Saidnaya non parla soltanto della Siria, ma vuole in qualche modo offrire una prospettiva sulla geopolitica di tutta la regione del Mediterraneo orientale, e soprattutto appunto la scrittura di Ramzi si ispira alle testimonianze reali di questi sei attori, ma poi supera la testimonianza per arrivare a un testo che sia maggiormente poetico, una narrazione più poetica che vuole esplorare i sentimenti umani che si sviluppano appunto in un uomo accusato ingiustamente innocente. Quanti sono i protagonisti? Elles sont six sur scène. Deux femmes et quatre hommes. Sono due donne, quattro uomini e un musicista, e non sono appunto tutti attori professionisti, le donne interpretano più ruoli. Il musicista invece è un giovane siriano e ha avuto una storia spaventosa, ma in realtà tutte le storie che si raccontano sul palcoscenico sono delle appunto storie molto tragiche. E quello che mi interessava stavolta era dare anche offrire una prospettiva diversa, cioè presentare personaggi che provenissero da luoghi geografici diversi, quindi ci sono attori dal nord, dal sud della Siria, ma anche di Damasco o della Turchia, del Libano, perché volevo decifrare il regime dittatoriale della Siria, le storie che avevano incrociato appunto il peso di questo regime dittatoriale, e soprattutto scandagliarne i giochi politici, cioè non si tratta, quello in Siria non è soltanto un sistema politico, ma è un sistema che in qualche modo si riattacca a tutta la politica dell'area medio orientale, quindi anche al sistema israeliano, iracheno, turco. Gli equilibri politici all'interno del Mediterraneo in realtà chiamano in causa anche l'Europa e il suo disimpegno nella realizzazione dei processi di pace. E quindi attraverso queste storie volevo capire appunto in che modo il regime siriano avesse schiacciato i ricordi dei protagonisti, avesse in qualche modo messo a tacere sentire completamente distrutto la classe media di questa società. Terminiamo il nostro viaggio a Roma per farci quattro risate con la nuova commedia di Greg, L'accendino magico, in scena al Teatro Golden dal 23 settembre all'11 ottobre. E quindi chiunque aziona l'accendino varca una dimensione? Sì, gliel'ho già spiegato io. Ma voi come lo sapete? Come lo sappiamo, ce l'ha detto il monaco, non volevamo crederci all'inizio, però poi... Il monaco? No, aspetta, quindi chi ci è andato ad Amplifort? Io e Alex. Ah, quindi in questa dimensione siete tu e Alex che siete sposati? Ma che dici? Alex è mio fratello. Io sono sposato con Vania. Ah, ok, allora è di nuovo Claudia, mia moglie. Ma no, io sono fidanzata con Guido. Guido? E ma chi è Guido? Cosa accade in questa villetta al mare? Accade che una coppia che ha festeggiato il proprio 10° anniversario di matrimonio con un viaggio in Inghilterra visitando un'abbazia, invita un'altra coppia di amici e rivela loro di aver incontrato un monaco che ha raccontato loro una strana leggenda secondo la quale appunto c'è un misterioso antico accendino che serve a varcare le dimensioni. Il marito, che è un po' dedito ai furti, ha rubato questo accendino, convinto che appunto sia una storia fasulla, ma invece durante la serata, dopo cena, l'accendino, che non ha mai funzionato fino a quel momento, si accende e loro varcano le dimensioni. E io sono sposato? No, sei fidanzato. E con chi? Con Lallo. Ah, con Lallo. Ma come con Lallo? Con Lallo. Ah, ma Lallo è un nome da maschio. Lallo è un maschio. E che so, gay? Eh beh. In realtà loro marcano varie dimensioni. Dapprima sono molto simili a quella di partenza, quindi solo poche differenze, ma via via sono sempre più distanti da quella di partenza. E i quattro amici, più gli altri, più l'altro amico che ogni tanto si palesa, si trovano a vivere dei mondi paralleli, degli universi mai esplorati, e a mano cominciano a rendersi conto della loro realtà. E da quel momento in poi comincia la loro corsa bramosa verso il successo, verso la ricchezza, perché ovviamente loro si trovano via via cafoni o nobili, ricconi, industriali oppure dei mendicanti, però ovviamente loro capiscono che più volte accendono l'accendino più c'è la possibilità di ottenere di più, e questa bramosia li porterà verso l'apoteosi finale. La vostra anima è povera e mendica quel lucandore da cui l'avete sottratta, l'avete macchiata, spurcata con la vostra bramosia. E anche per questa puntata è tutto. Ringrazio Alessandro Chiappini in regia e ricordo che potete riascoltare Cartellone su podcast e ci potete scrivere a cartellone@radio24.it.